A volte non vorrei parlare, ma stare fermo lì a guardare ogni tuo movimento, i tuoi capelli mossi dal vento. È bello, sai, amore mio, dirti tutto quello che sento io. A volte non bastano le parole per dipingere un respiro, un'emozione, una canzone. Vibra fortemente il cuore, respira ogni mia passione. Baciare le tue dolci labbra, salate e sporche di sabbia. Sognare tra la luna e questo mare, e svegliarmi al mattino con te vicino. Vicino sempre acceso questo sole. Sempre intenso questo amore, come odore di un fiore, fortemente, specialmente. Music is the key. Please turn off the light. I wanna run all night. I'm gonna get down that right. So turn off the light. Immensamente, immensamente. Sempre intenso questo momento. Specialmente il cuore e la mente.